America 24 di Mario Platero. Specialty beers brewed in small batches in Harrisburg, Pennsylvania. Hotback, Troganator, and our most popular beer, Pale Ale. Buongiorno, benvenuti in America 24, da New York, Mario Platero. Questa bizzarra pubblicità che avete ascoltato, pubblicità per la birra, è la pubblicità di maggior successo, sempre per le birre, negli Stati Uniti. Quasi 3 milioni di contatti su YouTube. Ve l'ho fatta ascoltare perché bizzarramente la birra è entrata a far parte dei colloqui fra Barack Obama e David Cameron, il primo ministro britannico, al suo debutto alla Casa Bianca. Sentiamo. We have just concluded some excellent discussions, including whether the beers from our hometowns that we exchanged are best served warm or cold. Ecco, avete sentito Barack Obama che nel dare il benvenuto alla prima visita di un primo ministro conservatore alla Casa Bianca in moltissimi anni, affronta la questione della birra. Dice: bene, abbiamo parlato e abbiamo fatto un confronto tra le nostre birre locali e se è meglio berle queste birre fredde, se è meglio berle calde, e siamo arrivati alla conclusione che ciascuno di noi ama la birra dell'altro. Sentiamo Cameron. While at the World Cup our teams could only manage a score draw, I believe our relationship can be a win-win. And yes, I did enjoy drinking the 3-1-2 beer cold during the World Cup. Avete sentito invece Cameron che racconta di quando vedeva le partite di calcio nella Coppa del Mondo e soprattutto quando ha visto la partita Stati Uniti-Inghilterra e dice: beh, insomma, ho usato in effetti la birra 3-1-2, che è una birra locale di Chicago amatissima dal presidente Obama. L'ho presa fredda, sottolinea, e dunque non calda. Spesso in Inghilterra si bevono le birre a temperatura ambiente, e dice: in quel caso la partita è stato un draw, un pareggio, però la nostra relazione può essere un win-win, quindi una vittoria per tutti e due i paesi, una partita, una relazione senza perdite. E poi è andata avanti. Mi è piaciuta talmente tanto questa birra che l'ho bevuta durante la partita Germania-Argentina, e devo confessare, per un inglese, cosa difficile forse per me da farlo, che vi sorprenderà, che, dice Cameron, tifavo per la Germania. Thank you for the meeting, for the lunch that we had, and also for the tour of part of your home. I have to say I was most impressed by how tidy your children's bedrooms were. And I think if... Avete sentito di nuovo Cameron, così scherzosamente, che racconta di aver fatto un giro della Casa Bianca, di aver visitato gli appartamenti privati del presidente, e Cameron dice che è rimasto straordinariamente impressionato soprattutto dall'ordine perfetto delle camerette delle due figlie di Barack Obama. Dice: ma qual è il tuo segreto, Barack? E Obama, scherzando, risponde: beh, gli ho detto che il primo ministro britannico stava venendo in visita. Perché vi ho raccontato in apertura queste cose? Perché questi due leader hanno cercato di fare il possibile per dare l'idea che la relazione tra Washington e Londra resta una relazione amichevole, una relazione di special relationship, di relazione speciale, e soprattutto che questi due giovani leader, perché a vederli così uno di fianco all'altro, soprattutto Cameron, che è ancora più giovane di Barack Obama, hanno già legato, hanno già stabilito un rapporto personale, riescono a scherzare anche quando devono parlare di cose difficili. Ha colpito, devo dire, agli americani la straordinaria serietà, al di là degli scherzi e delle battute, di David Cameron, che ha sfoggiato una grande oratoria. Ecco, naturalmente ci si domanda se davvero, al di là di questa facciata, la relazione resta quella di sempre, quella che avevano per esempio Ronald Reagan con Margaret Thatcher, o quella che aveva George W. Bush con Blair, perché lo stesso Cameron durante la campagna elettorale ha fatto capire che Blair si era un po' troppo schiacciato sulla presidenza americana, ha fatto capire che l'Inghilterra, la Gran Bretagna non avrebbe avuto un rapporto di vassallaggio con gli Stati Uniti, e dunque è stato lui stesso il primo ad avanzare così una sorta di autonomia rispetto a quello che era un rapporto molto molto vicino fra i suoi predecessori. Siccome questo ha generato critiche un po' da tutte le parti, e siccome lo stesso Barack Obama ha un po' preso le distanze dall'Inghilterra, dall'Europa, e quindi ha così stabilito un rapporto più freddo rispetto a quello che avevano fatto i suoi predecessori, ecco che per rispondere alle inevitabili critiche che sono sorte, i due hanno fatto questi piccoli numeri simpatici. Ma naturalmente c'è stata poi la sostanza di questi incontri di ieri ha ruotato soprattutto attorno a Lockerbie. Had what we called a violent agreement, which is that releasing the Lockerbie bomber, a mass murderer of 270 people, the largest act of terrorism ever committed in the United Kingdom, was completely wrong. Avete sentito David Cameron come prende le distanze dalla decisione del governo scozzese di liberare il terrorista libico colpevole, responsabile dell'attentato nei cieli di Lockerbie, Abdel Bassett al-Megrahi, che doveva così essere liberato per considerazioni umanitarie, era malato di cancro, era stato in prigione molti anni, e dunque gli scozzesi, che hanno un'autonomia rispetto al governo centrale londinese su certe questioni, per esempio su quella, hanno deciso che era giusto liberarlo e farlo tornare a casa. Se non che, tornando a casa, il malato terminale al-Megrahi, che sarebbe dovuto morire poche settimane dopo, non è poi più morto, anzi sta benissimo, è passato un anno e secondo alcuni medici la sua forma di cancro è debolissima e potrebbe continuare a vivere almeno per altri 10 anni. Ecco, si è scatenato ovviamente in questo periodo in Inghilterra un piccolo scandalo, si è scatenato naturalmente negli Stati Uniti, c'è un gruppo di senatori che ha poi incontrato Cameron ieri pomeriggio, che ha chiesto al primo ministro giustificazioni specifiche su questo e soprattutto hanno chiesto l'apertura di una nuova inchiesta, un'inchiesta molto delicata. Sentiamo perché. He showed his victims no compassion, so in my view neither should that callous killer have been given that luxury. That wasn't a decision taken by BP, it was a decision taken by the Scottish government. Ecco, l'inchiesta in teoria dovrebbe essere riaperta, perché poi Cameron spiega che c'era stata un'inchiesta, perché il sospetto è che la Scozia, attraverso l'influenza del governo centrale di Blair di allora, abbia consentito alla liberazione del terrorista perché la British Petroleum avrebbe potuto ottenere in cambio delle concessioni petrolifere nei pozzi libici. Cosa che naturalmente ha aumentato ulteriormente lo scandalo. Cameron, interpellato su questo, ha detto che non è assolutamente vero. La BP, come sappiamo, è già in gravi difficoltà in America per la marea nera, per il pozzo che è esploso, il più grave disastro ecologico della storia americana, un disastro ecologico tra l'altro che si è avuto, è sempre più chiaro questo, per negligenza, e dunque Cameron ha detto che questo assolutamente non è vero, che comunque questa domanda imbarazzante, difficile, che ha un po' raffreddato quell'atmosfera simpatica e spiritosa che si era instaurata fra i due, questa domanda, ha detto, dovrete farla alla British Petroleum. Detto questo, secondo me l'incontro è andato molto bene, le voci di freddezza sono state un po' spazzate via, i due leader hanno parlato anche di alleanza, di guerra, di soldati uccisi in combattimenti spalla a spalla in Afghanistan, però poi alla fine si tornava sempre sul tema del momento, la British Petroleum e Lockerbie, e su questo punto Cameron ha preso un impegno, la BP pagherà tutti i danni legati all'inquinamento, però sia l'America che la Gran Bretagna dovranno aiutarla a rimettersi in piedi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Da questo fine settimana sono già in vendita i biglietti del prossimo concerto dei Phoenix qui a New York. Pensate, un concerto che si terrà il 20 di ottobre al Madison Square Garden e sarà l'unico concerto di questa band, un successo incredibile, sulla costa east degli Stati Uniti. Beh, che è successo? I biglietti sono già andati a ruba, letteralmente a ruba, potrebbero finire le vendite nel giro di pochi giorni, quindi se qualcuno di voi intende venire a questo concerto in ottobre farà bene ad affrettarsi. Ecco il gruppo Phoenix e uno dei loro hit, Lizomania. So go!